sempre più confuse, contorte e combattute queste elezioni americane, confuse perché in nessuno dei campi emerge ancora un concorrente davvero di testa. Hillary Clinton ha vinto il Nevada con il 51% dei voti ieri contro il 46% di Obama, ma Obama è più forte nella Carolina del Sud, dove i democratici voteranno sabato prossimo. In campo repubblicano poi la situazione è ancora più aperta: se Mitt Romney ha vinto bene il Nevada, è stato poi umiliato con il quarto posto in Carolina del Sud, dove il suo partito ha votato ieri e dove ha vinto John McCain, che si rimette così in testa alla corsa. Mike Huckabee, secondo in South Carolina, conferma un candidato fortissimo, abile, grande oratore, trascinatore. Primarie contorte perché a volte non se ne viene a capo. Colpi di scena, suspense, cambiamenti improvvisi. In Nevada, ad esempio, la vittoria di Hillary sembra ora una vittoria di Pirro. Se ha vinto il voto, Obama rivendica di aver vinto i delegati, grazie a premi di maggioranza in certe contee. Elezioni combattute dunque, elezioni molto aperte. In campo repubblicano i moschettieri restano tre, con la possibile aggiunta di D'Artagnan, Rudy Giuliani. Mario Platero, GR24, Il Sole 24 Ore, New York.